24 mattino di Alessandro Milan. 7:20 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua, 24 mattino, e radio24.it in diretta fino alle 9 per i vostri sms 349-238-6666. Di cosa parliamo oggi nel sondaggio? Parliamo di questo allarme che gli Stati Uniti hanno lanciato per il potenziale terrorismo internazionale e che coinvolge anche l'Europa, Germania, Francia, Gran Bretagna, forse anche l'Italia. Noi vi chiediamo, avete paura voi a viaggiare? Vi farete condizionare da questo allarme di terrorismo internazionale? Tornano le sigle Al-Qaeda, torna la foto di Mohammed Atta, quello dell'11 settembre, oggi sui giornali. Votate su radio24.it, ne parleremo poi alle 8:30 come di consueto, ed ora ci tuffiamo nella lettura dei giornali. In primo piano. Martedì 5 ottobre. Un'alleanza per la crescita, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, parte il confronto tra le parti sociali, ieri è stato lanciato il tavolo tra imprese e sindacati per la produttività e la crescita, appunto. Ma io voglio partire da quello che prende le prime pagine di Corriere Repubblica, il titolo è «Il Vaticano accusa il Nobel», più o meno per entrambi i quotidiani. Il Vaticano contro il Nobel per Repubblica, un Nobel per i figli in provetta per la Stampa. Di cosa si tratta? Di solito sono i Nobel per la pace, quei premi che fanno un po' discutere, no? Per esempio l'anno scorso a Obama, il comandante delle forze americane in guerra, che ha preso il Nobel per la pace. Questa volta il Nobel per la medicina, che è andato a Robert Edwards, 85 anni, è colui che è il padre della tecnica della fecondazione in vitro, colui che ha fatto nascere oltre 4 milioni di bimbi nel mondo, così come fanno notare oggi tutti i giornali, colui che è stato attaccato ieri dal Vaticano. Con parole molto dure, per esempio Monsignor Carrasco de Paula oggi fa anche un'intervista a Repubblica, dice: sì, dal punto di vista medico riconosciamo il suo ruolo, senza la procreazione in vitro non ci sarebbero però stati neanche i commerci di ovociti, le pratiche di congelamento di embrioni in banche dati, vale a dire vite concepite ma destinate alla distruzione. Con l'eterologa in vitro si è banalizzata la maternità pericolosamente, e la paternità con gli uteri in affitto, scambi di embrioni, compravendite strane. Sarebbe stato meglio potenziare la ricerca per combattere l'infertilità. Queste sono parole di Monsignor Ignazio Carrasco de Paula, che appunto è intervistato da Repubblica, è il neo presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che ha criticato appunto questo premio Nobel per la medicina a Edwards. Certo, i giornali sono pieni, per esempio in Italia Repubblica dice 10.000 figli all'anno grazie a lui. Il Messaggero intervista la prima bimba in Italia nata grazie alla tecnica elaborata da John Edwards. Si tratta di Alessandra Abbisogno, nata alle 18:45 dell'11 gennaio 1983, venuta alla luce nella clinica Villa Alba ad Agnano grazie al ginecologo Vincenzo Abate. Oggi si sta laureando in biologia, dice: è un cerchio che si chiude, nessuno più di me può condividere con Edwards, il dottor Edwards, questa gioia, la gioia per il Nobel, giusto riconoscimento per una vita dedicata alla ricerca. Ma ci sono certo anche appunto le critiche che trovate ovunque, addirittura guardate come l'Unità titola in prima pagina, mette professore Robert Edwards, insignito il padre della fecondazione in vitro, il titolo è lui con due bambini, l'eretico. E c'è da dire che anche Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale, critica in un editoriale di Carlo Beglieni a pagina 2, critica questa nomina. Turbamenti per questo premio nascono dal fatto che la fecondazione in vitro è fortemente criticata per l'irrefrenabile voglia che genera di mettere le mani in quello che il compianto Enzo Tiezzi chiamava blueprint, il cuore pulsante della vita. Assegnazioni di premi come questa sono scelte che fanno riflettere per lo scarso valore che riconoscono a un tipo di ricerca non da prima pagina e per l'alto valore che affermano nella ricerca di tecniche che implicano la morte di embrioni umani. Ecco qui l'accusa, cioè per la fecondazione in vitro si utilizzano anche, si fecondano embrioni che poi vanno a essere distrutti e sono per la Chiesa, per la dottrina cattolica, vite umane vere e proprie. Bisognerebbe ricordare, tra l'altro, scrive Carlo Beglieni, come in barba la Vulgata, che vuole la Chiesa nemica della scienza, era stato un prete, l'abate Lazzaro Spallanzani, a scoprire e sperimentare gli accoppiamenti artificiali prima tra rane, poi tra mammiferi. Solo che Spallanzani governava, manipolava e muoveva nella sua ricerca i gameti di cani e rane. Non interferiva con la vita umana. Insomma, un Nobel quantomeno discutibile viene definito da Avvenire. Beh, è un bel tema che trovate oggi molto sviluppato sui giornali, in prima pagina del Sole 24 Ore anche Lello Naso, commentando questo Nobel alla ricerca che irrita il Vaticano. Il Nobel a Robert Edwards dice: forse questo dovrebbe rilanciare il tema sulla legge 40 in Italia che regola la fecondazione assistita. Evidentemente qualcosa nel suo impianto non funziona e dunque, senza pregiudizi, senza guerre di religione su un fronte e sull'altro, forse sarebbe il caso di aprire una riflessione seria per la ricerca, per il progresso, anche per rispettare il precetto biblico del crescete e moltiplicatevi e non condannare nessuna donna a sentirsi come il giunco sterile della scrittura. Questo Lello Naso in prima pagina sul Sole 24 Ore, ma davvero su questo tema, ripeto, molto molto interessante, troverete su tutti i quotidiani, molti ci aprono dei commenti che vi faranno riflettere. Il premio Nobel per la medicina, davvero mai come quest'anno contestato o comunque fonte di commenti e riflessioni. In primo piano. Alle 7:34 minuti, e allora se ci tuffiamo nella francamente noiosa politica, la notizia politica del giorno di ieri è la nomina del ministro Paolo Romani, il sostituto di Claudio Scajola dopo 154 giorni, 5 mesi di interim di Berlusconi, habemus ministrum, così inizia l'articolo del Corriere della Sera. 5 mesi dopo Scajola, anche se la vera notizia che sottolineano tutti i giornali, anche Dino Pesole sul Sole 24 Ore, pagina 17, è il clima di grande gelo che si è registrato ieri al momento del giuramento tra Paolo Romani e il presidente Napolitano, presenti ovviamente anche Silvio Berlusconi, Gianni Letta. Cerimonia rapida, protocollare, pochi scambi di battute, scrive Dino Pesole. Clima freddo, a tratti gelido, ieri sera nella sala della Pendola del Quirinale. A poco è valso il tentativo di Berlusconi di rompere la tensione con un tentativo di barzelletta. Ebbene sì, perché c'è stato il tentativo di barzelletta da parte di Silvio Berlusconi, che ha detto ai cronisti: tra poco vi racconto una barzelletta. È intervenuto Gianni Letta a fermarlo, quasi in una gag già prevista tra i due, racconta dei giornali. E al che Berlusconi ha detto: ecco, vedete, non posso neanche raccontare le barzellette, vedete cosa succede quando non si ha niente da fare nella vita? Ovviamente riferito con molta ironia a Gianni Letta. Le critiche ci sono da parte dell'opposizione, che dicono: Paolo Romani non si intende di imprese. C'è chi, come Massimo Giannini in prima pagina di Repubblica, è più esplicito in un commento, Saldi di fine regime, a dire: la scelta di Paolo Romani soddisfa la meccanica di governo, c'è una poltrona vuota, quella di Scajola, che viene occupata, ma offende l'etica. C'è un conflitto di interessi strutturale, quello di Berlusconi, che viene ulteriormente codificato. Romani, già viceministro, è infatti un perfetto ingranaggio della macchina Mediaset. L'uomo che ha contribuito a scrivere la scandalosa legge Gasparri sulle TV, ha fatto pressioni sull'Unione Europea per negare a Sky la deroga sull'asta per il digitale terrestre, ha tentato di sfilare la rete a Telecom per consentire all'azienda del Premier di prendersene un pezzo, ha regalato alla stessa Mediaset il canale 58 per permettergli di sperimentare il digitale in alta definizione prima della gara. Ora immaginiamo con quanta equanime solerzia saprà valorizzare il servizio pubblico e difenderlo da strapotere di quello privato. Questo è il commento al vetriolo di Massimo Giannini, che è il vice direttore di Repubblica, in prima pagina, così anche Valentino Parlato in prima pagina del Manifesto. Il Manifesto titola con la foto del giuramento, proprio la stretta di mano tra il capo dello Stato e il neo ministro Romani. Il titolo è Il prestanome, proprio a sottolineare, viene definito così, l'amico del biscione. Paolo Romani diventa ministro dello sviluppo. C'è anche appunto un commento di Valentino Parlato molto critico. Diciamo, questa è la prima notizia politica del giorno. Se volete, la seconda è che la Lega ha chiesto un vertice di maggioranza che si terrà domani alle 11.30. Per Vittorio Feltri sarà un vertice di maggioranza di fuoco, così in prima pagina del giornale, intanto che il titolo è Decidetevi, pace o voto subito, così non si può andare avanti. Questo è il titolo di apertura del giornale. Domani vertice di fuoco nella maggioranza alle 11.30, con Maroni che ha evocato per la prima volta Prodi. Il rischio è di finire come il governo Prodi, sarebbe una fine terrificante. Cioè, Prodi, sapete, era lì a contare un giorno sì e l'altro pure se aveva i voti in Parlamento per ogni provvedimento. Queste sono le due notizie, cioè il ministro Romani e il vertice di maggioranza. Poi, come al solito, abbondano i retroscena. Sapete che siamo la politica dei retroscena, cioè in Italia, non quello che si dice, ma quello che i retroscenisti, bisognerebbe chiamarli così, ormai gli articolisti che scrivono tutti i retroscena della politica, raccontano sui giornali. Oggi Marco Galluzzo sul Corriere della Sera vince la palma del retroscenista. Non vedo altri leader in giro. Questo è un virgolettato attribuito a Berlusconi. A chi sostiene che le elezioni siano un salto nel buio, in queste ore il Cavaliere replica così. L'unico a cui Berlusconi è disposto a riconoscere doti di leadership nell'opposizione, sapete chi è? Indovinate chi è? Nichi Vendola. Ma è fuori gioco, sempre virgolettato attribuito a Berlusconi, perché nel PD non sono in grado di ascoltare la gente. Se lo facessero avrebbero un altro segretario. E invece Casini, Rutelli, Fini, Montezemolo, come li ha definiti Berlusconi, li avrebbe definiti in questo retroscena, sono solo dei piacioni che non accetteranno mai di convivere o condividere una fetta di potere con altri. Non vedo altri leader in giro. E secondo Marco Galluzzo, Berlusconi avrebbe già una data cerchiata sulla sua personalissima agenda per le prossime elezioni, il 27 marzo prossimo, perché è una data che gli ricorda il primo successo di Forza Italia. Vogliamo andare a un altro commento o retroscena di un altro retroscenista, vale a dire Salvatore Merlo, su Il Foglio. Il titolo è Perché il Cavaliere ora teme che anche la diga del Senato possa cedere. C'è anche un sottotitolo, Un magistrato informato. Da qualche giorno circola un elenco che non rende tranquillo il Premier. L'elenco dei Finiani, che potrebbero oggi 10 in Senato, domani potrebbero diventare 20, cioè una possibile anche diaspora di senatori al Senato, di senatori tra i Finiani. Nell'entourage raccontano che domenica, la festa del PDL a Milano, il Cavaliere avrebbe preferito non prendere la parola, non solo per un paventato allarme sicurezza. Molte le incertezze, il timore di un ribaltore per modificare la legge elettorale, la leggenda metropolitana di un accordo tra Fini e le procure, avvalorata dalle parole di un magistrato informato in occasione di una recente visita segreta a Berlusconi. E addirittura ci sono, addirittura qua Il Foglio adombra il sospetto che un magistrato informato sia andato a fare una recente visita segreta a Berlusconi per raccontargli del presunto accordo tra Fini e le procure. Lo stesso Salvatore Merlo dice psicosi o realtà? Ecco, questi sono i retroscena della politica. Intanto ieri il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia si è vista con la prima seduta del tavolo aperto per la crescita, per le riforme, impegno comune per la crescita. Questo è il titolo del Sole 24 Ore di Nicoletta Picchio a pagina 3. Per la prima volta, insomma, si sono visti in maniera concreta 17 sigle tra imprenditoriali e sindacali che si sono riunite nella sede dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, per avere con una sola voce un'agenda sullo sblocco delle infrastrutture, su come racconta Alberto Rioli nel commento di prima pagina, su come prorogare gli ammortizzatori sociali, detassare ulteriormente gli straordinari, dare più certezze previdenziali ai lavoratori in mobilità, rendere più fluido il credito verso le piccole imprese, inventare un piano per il Sud, dare una risposta ai 500.000 cassi integrati a rischio. In un paese che usa il 56,9% solamente del proprio capitale umano, dove aumentano le persone che non cercano nemmeno più un lavoro ma si abbandonano alla disperazione o al sommerso, insomma una politica che chiacchiera, e poi un paese che forse vorrebbe leggere sui giornali qualcosa di diverso, tanto che oggi la notizia politica, che a mio modo di vedere è più interessante, e poi dopo mi bollate di qualunquismo, di populismo, di demagogia, la scrive Il Sole 24 Ore con Barbara Fiammeri a pagina 16. La carica dei 105 senatori a rischio pensione. Allora, se ne è parlato molto in questi giorni. Qualcuno dice: guardate che non staccheranno mai la spina di questa legislatura finché non si arrivano a 2 anni, 6 mesi, 1 giorno. Errore, perché ora non bisogna più, non bastano più per i senatori o deputati che sono alla prima legislatura fare metà legislatura più 1 giorno per avere 5 anni di pensione di tutta la legislatura. Ora bisogna accumulare 5 anni, anche in più mandati, ma 5 anni. Quindi chi è alla prima legislatura deve fare 5 anni, altrimenti non c'è pensione. Quanti sono quelli alla prima legislatura? 105, per l'appunto. Sono poco più di 100 al Senato, i senatori, e 240 invece alla Camera, quindi in totale sono, se so fare i calcoli, 340 i deputati, 105 al Senato e 240 alla Camera, 345 dunque il totale. Accidenti, mi fanno fare questi conti di matematica di prima mattina. 345 parlamentari, 105 al Senato, 240 alla Camera rischiano di vedersi negare la pensione se si andrà a elezioni anticipate. E Barbara Fiammeri dice chi sono, insomma, per esempio i senatori, 12 della Lega, 40 del PDL, 3 di Futuro e Libertà e così via. Ci sono anche nomi famosi, Giuseppe Ciarrapico, il sottosegretario Caliendo. E poi insomma, ne trovate altri, ma comunque sono tanti che rischiano la pensione. Vuoi vedere che cercheranno in tutti i modi, anche con governicchi, di andare avanti? Chi lo sa? In primo piano. Oltre ai retroscena della politica da giorni, lo trovate oggi su vari giornali, si potrebbe aprire un gran paginone sulla cosiddetta macchina del fango o macchina dell'odio o retroscena o complotti. E basta comunare a Libero. Libero oggi torna in edicola dopo lunedì, il lunedì non è mai in edicola, e Maurizio Belpietro torna a parlare di quello che è successo giovedì scorso, l'esplosione di 3 colpi di pistola alla sua guardia del corpo. Maurizio Belpietro fa un editoriale molto duro nei confronti di Marco Travaglio, che domenica, un paio di giorni fa, aveva scritto una serie di titoli di giornale che secondo Travaglio dimostravano che la macchina dell'odio la mette in moto Belpietro con i suoi titoli. Intendiamoci, tutto ciò Travaglio, cioè gli attacchi che fa a noi, lo fa con ironia, scrive Belpietro, anzi usando la comicità. Quando è raggiunto da querela, infatti, si appella al diritto di satira, certo di farla franca grazie a molti amici su cui può contare nelle aule di tribunale. Pur continuando a pensare che non armerebbe mai la mano di nessuno, non posso non constatare che nel clima di odio Marco ci ha messo molto del suo. Così scrive Belpietro. La totale denigrazione dell'avversario, la mancanza di un minimo di rispetto sono la materia prima dei suoi articoli, ingredienti che insaporiscono la campagna d'odio di cui molti di noi giornalisti di centrodestra sono vittime. Tra l'altro a pagina 2 l'inviato di punta di Libero, Gianluigi Nuzzi, racconta i retroscena di questa di questo misterioso episodio, effettivamente misterioso, perché al momento si è persa totalmente traccia di questa persona che si è presentata armata davanti alla guardia del corpo, tanto che Gianluigi Nuzzi dice: ecco qui la telefonata che smonta qualsiasi tesi dietrologica. La persona, la guardia del corpo, che si è trovata di fronte e che poi ha aperto il fuoco, ha attraverso la funzione chiamate rapide sul cellulare ha telefonato al collega che era in auto, CL, così viene definito con insomma gli iniziali del nome e cognome, che arma in pugno è sceso subito dall'auto, si è avviato verso l'ingresso principale del palazzo, al tempo stesso ha chiamato il 113 chiedendo rinforzi, una telefonata che riduce i tempi di manovra dell'assalitore e quelli della dietrologia, di chi collega anche questa storia con l'analogo salvataggio dell'allora magistrato Gerardo D'Ambrosio. Insomma, secondo Libero, questa telefonata fatta mentre inseguiva l'uomo in fuga, questa telefonata fatta al collega che stava di sotto, che è uscito brandendo anche lui l'arma, è la dimostrazione che le tesi dietrologiche devono essere smontate. Sta di fatto, insomma, che gli inquirenti ancora indagano per capire dove si sia dematerializzato questa persona che ha fatto fuoco con l'arma che si è inceppata e poi è scappato. Sempre macchia del fango, ieri il giornale titolava così: abbiamo la certezza che due procure stanno spiando i telefoni cellulari di nostri, direttore, vice direttore, eccetera. E oggi il giornale ci torna, intervista Alfredo Mantovano, sottosegretario all'interno, che dice: per alcuni PM spiare è un'abitudine, io non conosco la vicenda, l'unica fonte di informazione è l'articolo uscito sul giornale, certo che il tono del direttore Sallusti non lascia adito a dubbi. Macchina del fango, ancora? Ne volete ancora? Come ti distruggo Fini. Questo è il titolo di apertura del Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano, in un lunghissimo articolo che non ho fatto in tempo a leggere, ma molto denso, a pagina 2 e 3, racconta tutti in retroscena di come Walter Lavitola, divenuto famoso da qualche giorno, è il direttore, l'editore dell'Avanti, sarebbe dietro, con un viaggio misterioso a Santa Lucia, i contatti con un ministro assai solerte, un giornalista troppo affaccendato, leggo il titolo del Fatto Quotidiano, Corrado Formiglia e Andrea Casadio raccontano la storia di un complotto, il complotto che avrebbe portato a infangare Gianfranco Fini. Abbiamo finito, A cena con Schifani, leggo sempre sul Fatto Quotidiano. Oggi ci sono due paginate di articoli, una sul Fatto, per la verità non è una novità, e una su Repubblica contro il presidente del Senato. Il Fatto Quotidiano racconta di una cena di Schifani alle 23:45 di qualche giorno fa alla caserma Cangialosi della Guardia di Finanza di Via Cavour a Palermo, nella quale cena si sono incontrati tra gli altri nello stesso tavolo il presidente del Senato Schifani e il procuratore generale di Palermo, a capo della procura di Palermo, Francesco Messineo. Perché questa cena sarebbe importante per il Fatto? Perché Messineo è colui che ha smentito che Schifani sia iscritto nel registro degli indagati per associazione esterna alla mafia, come raccontava invece l'Espresso. E questa cena, il procuratore Messineo prima nega l'inchiesta, poi incontra a cena il presidente coinvolto. Per la verità, Messineo dice: abbiamo parlato della imminente visita del sommo pontefice, non era peraltro una cena segreta, era una cena con altre persone. L'altro articolo invece di attacco al presidente Schifani, o comunque che non fa dormire il sonno, secondo Attilio Bolzoni, è su Repubblica, dai pizzini al blog di Cosa Nostra, i messaggi che preoccupano Schifani. Su internet, Nino Mandalà, avvocato, ex condannato tra l'altro in primo grado a 8 anni per 416 bis in attesa di appello, secondo i magistrati è il reggente del mandamento di Villabate, ha un dente avvelenato, in passato è colui che avrebbe avuto dei rapporti anche con il presidente del Senato Schifani, e ora sul blog Nino Mandala, senza l'accento, ninomandala.blog.spot.com, starebbe raccontando pensieri e messaggi al mondo intero. Alcuni pensieri, secondo Attilio Bolzoni, potrebbero preoccupare il presidente del Senato Schifani, come quando racconta Posso immaginare, Nino Mandalà, lo stato d'animo di chi è stato travolto da drammatiche vicende giudiziarie e costretto a pagare il danno di una vita stravolta, in più la beffa dell'ingratitudine incassata dalle anime belle con le quali ha condiviso fino a tempo fa la stagione delle vacche grasse e dalle quali adesso si vede ripudiato come se fosse un lebbroso. Tatto Cattilio Bolzoni dice: con chi ce l'aveva in questo post? Chi sono le anime belle di cui si lamentava? Ci fermiamo qui, insomma, un po' di fango buttato qua e là, molto fango buttato qua e là sui giornali di oggi. Votate il sondaggio: Al-Qaeda minaccia l'Europa, voi ci credete? Temete per i vostri viaggi? Radio24.it, ora il GR. 24 mattino. L'intervista. E allora le 8:23 minuti, il protagonista della nostra intervista di oggi è il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, abbiamo sentito anche il GR Spettacoli, si è parlato di questa vicenda delle pubblicità sui gioielli della nostra architettura italiana. Le grandi archistar se la sono presa anche con Venezia, dicendo: ma com'è che Palazzo Ducale, per esempio, è sfregiato? Hanno usato questa parola con dei cartelloni pubblicitari. Lei, sindaco, che replica? Ma bisogna mettersi d'accordo: se Palazzo Ducale è sfregiato dalle impalcature per restaurarlo, oppure sarebbe sfregiato se non mettessimo le impalcature per restaurarlo. Il restauro è un fatto assolutamente necessario per mantenere questi gioielli, come dicono giustamente, e per poterli dare alla fruizione della gente e conservarli nel tempo. Il restauro sì, il problema è la pubblicità, cioè qualcuno che identifica come Palazzo Coca-Cola, il palazzo. A lei dà fastidio se qualcuno lo identifica così? Se quei soldi mi servono per mantenere quel palazzo, francamente io ci metto anche la bottiglia di Coca-Cola. Ah, beh, interessante. Il problema è avere le risorse. Se le archistar si riuniscono in un comitato per darmi i soldi per restaurare Palazzo Ducale, senza la pubblicità io sono ben felice. Com'è che li ha definiti lei? Dei soloni che hanno la puzza al naso, un po' così? Sì, mi sembra che invece di pontificare tanto, che vengano a Venezia e vengano a vedere quali sono le condizioni economiche di questa città, come penso di tante altre, ma di questa in particolare, dove e i monumenti sono tanti e la conservazione dei monumenti è particolarmente onerosa. Ma perché in Italia, sindaco, la cultura non riesce a ripagarsi? Oggi Sergio Rizzo in prima pagina del Corriere racconta la vicenda di Pompei, altra vicenda ben più a sud di Venezia, diverso contesto, però racconta dello sfacelo, di come non si riesce a Pompei, in quella grande cultura, a valorizzare economicamente quelle ricchezze culturali, quel patrimonio che abbiamo. Il fatto è che il patrimonio culturale che abbiamo è immenso. Venezia è un museo a cielo aperto dal punto di vista architettonico, quantomeno, e quindi la materia da conservare è tantissima, e pur avendo noi un fortissimo flusso di turisti, per certi versi, come dice qualcuno, anche troppi, però non è che si possano avere delle risorse da poter mantenere tutto. Palazzo Ducale è un museo che accoglie circa 1,5 milioni di visitatori l'anno, e con gli incassi si riesce a fare la manutenzione ordinaria e a gestire il palazzo senza andare in perdita. Però dopo, quando ci sono degli interventi di carattere straordinario, vanno ovviamente fatti. Bisogna ricorrere a risorse. Va bene lì anche la bottiglia di Coca-Cola, nel senso, se bisogna prendere, preferisce vedere per qualche mese una bottiglia di Coca-Cola o vedere rovinare Palazzo Ducale? No, ma l'ideale sarebbe riuscire a restaurarlo senza vedere la Coca-Cola. Sono d'accordo, a prescindere che beviamo dal fatto, tutti, voglio dire. Sono d'accordissimo anch'io, ma a prescindere dal fatto che comunque verrebbe celato alla visione per il periodo necessario per i lavori, quindi anche lì bisogna fare attenzione. Questo sì, però il ministro Bondi, guardi che dice: cambieremo le regole ora, perché sono tante le proteste, quindi qualcosa si studierà. Il ministro Bondi è una persona sensibile a queste cose, se lui riesce a cambiare le regole e a farci avere i finanziamenti, sono ben felice. Insomma, la questione è sempre quella economica, ovviamente, insomma, perché costano i restauri. Senta, sindaco, le chiedo, Sgarbi, sovrintendente al Polo Museale di Venezia, lei lo vuole o no? La sta chiamando Sgarbi, no, nel frattempo? No. No, Sgarbi è una persona di grande livello culturale, fra l'altro anche simpatico da un punto di vista personale, quindi se viene ben venga. Certo deve un po' adattarsi alle caratteristiche di questa città, che è una città che non ama gli eccessi e quindi va trattata per quella che è. Insomma, allora se pone questo paletto, come dire, con Sgarbi. Ma Sgarbi si era già adattato, adesso vediamo se ritorna. Io credo che saprà benissimo cogliere lo spirito di Venezia. Si adatterà. Parte lui c'è cresciuto, è stato qui a lungo, quindi la conosce bene. Però per concludere, sindaco, Sgarbi ha detto, io proprio in questa vicenda, io rinuncerei a 27.000 euro all'anno al posto di bibite e gioielli, piazzo l'annuncio della mostra del Giorgione, è lì, che forse non farà tanti soldi, quindi insomma... Sì, ma per carità, io lo ribadisco, ci sono tante forme di pubblicità e di sponsorizzazione, ne abbiamo altre qui in città che sono molto meno invasive, anzi sono molto rispettose della città, eppure danno molti soldi anche. Si tratta di trovare nel mercato quel giusto equilibrio fra chi dà quello che viene dato e quello che viene chiesto dallo sponsor. Adesso io non so se posso fare pubblicità a mia volta, ma abbiamo uno sponsor qui a Venezia che è l'ENI che sta facendo una grande campagna di pubblicità per Venezia senza apparire in senza cartellone. Va bene, lo suggeriremo alla Coca-Cola. La ringrazio, sindaco Giorgio Orsoni, sindaco di Venezia, su questo tema: come valorizzare il patrimonio culturale architettonico italiano. Servono gli sponsor, e gli sponsor, quando fanno i restauri, vogliono mettere un bel cartellone per cui qualcuno dice: ah, che scempio, Palazzo Ducale è diventato Palazzo Coca-Cola. Intanto ci fermiamo, pubblicità e meteo, e poi il timore di attacchi di Al-Qaeda in Europa. Questo è il tema del nostro sondaggio. Voi vi farete condizionare? Avete paura a viaggiare? Votate su radio24.it oppure siamo qui 800 24 00 24. 24 mattino. Alle 8:35 minuti, allora eccoci pronti al nostro sondaggio. Vi chiediamo la situazione di terrorismo internazionale, le minacce lanciate dagli Stati Uniti, rilanciate anche dai paesi europei per possibili attacchi di Al-Qaeda in Europa. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Voi avrete paura a viaggiare dopo questi attacchi? Questo vi chiediamo. Votate su radio24.it. Io dico, fortunatamente il 76% di voi per ora dice di no. Bisogna insomma reagire, non farsi, secondo me, condizionare. Però certo che quello che hanno lanciato gli Stati Uniti da alcuni giorni, le informazioni su credibili possibili sede di complotti orditi da Al-Qaeda, organizzazioni affiliate per colpire paesi europei, tra cui soprattutto Germania, Francia, Gran Bretagna. Ieri addirittura la Fox TV ha dato gli obiettivi, nel mirino sarebbe la Torre Eiffel in Francia, dove oggi ci fanno sapere dal Corriere che le code di turisti continuano, anche qui fortunatamente, Alexanderplatz a Berlino. Quando uno legge queste cose un pochino si potrebbe anche preoccupare. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 per i vostri messaggi. Cerchiamo di capire se si tratta di allarmi concreti, se dobbiamo preoccuparci, se è tutto un po' allarmismo. Lo facciamo con due colleghi. Giulietto Chiesa, intanto, che saluto e ritrovo. Buongiorno, giornalista, scrittore, tra l'altro in questi giorni proprio è uscito il suo ultimo libro, Il candidato lettone, edito da Ponte alle Grazie. Saluto anche Fausto Biloslavo del Giornale, ma anche il nostro collaboratore. Fausto, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Allora, Giulietto Chiesa, Giulietto Chiesa lo ricordiamo, è sempre uno che ha avuto delle teorie anche controverse, dibattute e contestate da alcuni sulla vicenda dell'11 settembre, eccetera. Allora, questo è allarme. Dobbiamo pensare che ci siano personaggi di Al-Qaeda in giro per l'Europa o che stiano puntando al cuore della nostra Europa? Ma io, comincio, intanto suggerirei di ragionare un istante. Da dove viene questa informazione? Questa informazione viene dai servizi segreti americani in primo luogo e poi da quelli europei occidentali che sono alle dirette dipendenze di quelli americani. Perché tirano fuori queste notizie? Io vorrei che la gente si chiedesse perché improvvisamente i servizi segreti, supposto che siano entrati in possesso di queste informazioni, le devono comunicare. A chi serve? Serve qualcuno perché si difenda meglio? A quanto pare no, perché la gente non può fare nulla e quindi continua a vivere come prima. Queste cose servono per creare allarme e servono per creare allarme non per difendersi dal terrorismo. I servizi sono lì per fare quello, in linea di teoria. I servizi dovrebbero stare zitti quando sanno queste cose, per non mettere in guardia i terroristi e per non far sapere loro che si stanno difendendo. E quale sarebbe lo scopo di creare allarme? Lo scopo sarebbe quello che ha descritto meravigliosamente Michael Moore nel suo Fahrenheit 9/11, è quello di creare allarme, perché così la gente pensa delle cose sbagliate invece alle cose giuste, invece che pensare alle cose giuste. Serve per distrarre, armi di distrazione di massa. Questa è la prima considerazione. Del resto oramai in questi ultimi 10 anni dovremmo un po' saperlo che questo meccanismo funziona quando deve funzionare, e quindi vuol dire che è pilotato, e quindi mi sembra che dovrebbe, la prima considerazione è questa: se fosse vero non lo dovrebbero dire, siccome lo dicono vuol dire che non è vero, vogliono distrarre, insomma. Eh sì, ma certo, armi di distrazione di massa, e la gente è in piena crisi europea, che cosa c'è di meglio che terrorizzare la gente, farla pensare ad altro e tenerla in uno stato di allarme generico, di fronte al fatto che invece c'è una situazione di allarme vero, e cioè il disastro finanziario che sta arrivando di nuovo. Ma questa però sarebbe una visione un po' di una grande spectre internazionale, no? Ma non è ancora una grande spectre internazionale, bastano 2 o 3 centri che diffondono le notizie. Ci sono questi centri, sono fatti apposta, sono lì apposta, ci sono uffici che non fanno altro giorno e notte che inventare queste soluzioni. Lo sappiamo, perché lo sappiamo, chiunque si occupa di queste cose sa che ci sono centri che lavorano esclusivamente per questo a tempo pieno, e per giunta sono pieni di gente di alta qualificazione psicologica, intellettuale, tutti. Allora, no, ma questi, siccome sono un punto di partenza molto interessante, sul quale so che Fausto Biloslavo non si troverà per nulla d'accordo, ma non so se interpreto il parere tuo, Fausto, che nei giorni scorsi hai scritto proprio di questa minaccia sventata per ora. Questo almeno era il titolo dell'articolo che riguardava i possibili attacchi in Europa pianificati in Pakistan, per la verità ancora in fase embrionale, ma insomma che c'erano. Allora, Giulietto Chiesa pone questa idea: distrazione di massa, questo è l'obiettivo. La fantascienza, la fantapolitica, e torniamo sulla terra. E sulla terra i servizi segreti raccolgono informazioni, cercano ovviamente di prevenire i disastri, soprattutto dopo l'11 settembre, e spesso e volentieri rendono noto parte di queste informazioni anche per far saltare questi piani, insomma, perché adesso sicuramente se questi piani erano entrati in una fase appunto comunque embrionale, insomma, ma di studio, certamente li cambieranno quantomeno, insomma. E, diciamo che poi ci sono alcuni punti importanti. Tutto è avvenuto nell'area tribale pakistana, cioè a cavallo fra Pakistan e Afghanistan, che ormai è il nuovo vespaio del terrorismo. Tutto è avvenuto perché ci sono stati sia degli arresti di quelli che io chiamo i volontari europei della guerra santa internazionale, arresti di 2 tedeschi, uno tra l'altro insomma nascosto sotto un burka e cose di questo genere, quindi anche abbastanza romanzati e divertenti, se anche se in realtà non c'è niente, insomma, non c'è niente da ridere su questo genere di argomenti. E poi ci sono state anche delle intercettazioni per cui un gruppuscolo legato soprattutto a questi volontari europei della Guerra Santa Internazionale stava ordendo un piano per scatenare una sorta di... La domanda di Chiesa era: perché svelarlo? Cioè, perché dovrebbero svelarlo i servizi segreti? Perché così, voglio dire, condividono le informazioni tra di loro i servizi segreti, certo, per sventare eventuali piani, no? Non è che... svelarlo per mettere in difficoltà chi aveva questo piano a livello embrionale, perché chiaramente dovranno cambiare piano, insomma, dato che è stato reso noto, cioè farlo sapere anche a loro, insomma, l'unico modo è a loro, ma come dire, e soprattutto ricordiamoci che loro non l'hanno solo svelato, ma sono andati a colpire le cellule che avevano intercettato e che avevano segnalato nelle aree tribali, quei velivoli senza pilota li hanno colpite, non più tardi ieri, sembra che abbiano fatto fuori 8 tedeschi di passaporto tedesco, sì, ovviamente sì. Origine islamica, che hanno aderito, insomma. No, ma su questo io vorrei chiedere Giulietto Chiesa, perché appunto le teorie dell'11 settembre Giulietto Chiesa le conosciamo, cioè voglio dire non dei terroristi, che non la versione che è più accreditata nel mondo, cioè Osama Bin Laden ha buttato giù le torri. Allora, la domanda secca è questa: ci sono secondo te alcuni terroristi che vogliono colpirci, cioè terroristi islamici di matrice islamica che sono o qui o in Pakistan, che stanno ordendo qualcosa per colpire ancora l'Occidente? La domanda è a me? Sì. Allora, io intanto vorrei un momentino, vorrei dire, non ho nessuna teoria sull'11 settembre. La mia teoria è che quello che è stato detto ufficialmente dell'11 settembre è integralmente falso. Va bene, l'unica teoria che io ho è questa, e di questo mi occupo. La teoria l'hanno fatta loro. Ci hanno detto loro che è stato Osama Bin Laden, dopodiché Osama Bin Laden non è incriminato per l'11 settembre neanche dall'FBI. Qualcuno mi deve spiegare, visto che Osama Bin Laden sarebbe quello che ha organizzato l'11 settembre, risulta che Osama Bin Laden non è mai stato incriminato negli Stati Uniti d'America. Perfetto. Da nessun organo giudiziario. Partendo da questo assunto, quindi dobbiamo dire che non ci sono evidentemente terroristi islamici che ci vogliono colpire. Io sono convinto che il terrorismo esiste, intanto definirlo solo islamico non mi sembra una forma un po' riduttiva. Di terrorismi ce ne sono molti, primo. Secondo, definire Al-Qaeda come tutto il terrorismo mondiale è una grande sciocchezza. Al-Qaeda è una sigla, certo, dietro la quale parte, si nasconde chiunque, e chiunque voglia nascondersi lo può fare tranquillamente. Da questo punto di vista Al-Qaeda è semplicemente la comodità con cui noi giornalisti spesso definiamo una cosa che non sappiamo definire. Chi è stato? È terrorismo. Chi è? È terrorismo islamico. Chi è? Al-Qaeda. Benissimo. Questa non è una spiegazione, perché Al-Qaeda è stata inventata dai servizi segreti occidentali e poi è stata naturalmente variamente utilizzata. Terza domanda: esiste il terrorismo? Certo che esiste, ma è evidente che esiste. Ci sono mille ragioni per cui esista e mille prove che esiste. Il problema è: questo terrorismo è autonomo o è pilotato? È una vecchia questione questa qua. Io, siccome conosco un po' come funzionano i servizi segreti, perché me ne occupo da 30 anni, dice che è pilotato. Come funzionano i loro sistemi, e so benissimo che i servizi segreti funzionano molto, e quindi pensare che in giro per il mondo, soprattutto sto pensando a quelli americani che sono molto potenti e molto ben organizzati, pensare che questi servizi lasciano circolare in giro per il mondo centinaia di terroristi senza infiltrarsi nelle loro organizzazioni. Cioè, quindi è pilotato. Ma certo che sono pilotati. Quindi non so, le attentati a Madrid, per esempio, sono pilotati. L'attentato di Londra del 2005, è pilotato. Gli attentati di Madrid sono tutti stati infiltrati. Le prove delle infiltrazioni sono larghissime. Se poi qualcuno degli italiani ha dei dubbi, basta ricordare la strategia della tensione in Italia. Ma scusate, abbiamo in casa il nostro esempio che funziona perfettamente. Sì, come la strategia della tensione. Tutti i servizi segreti italiani erano, e naturalmente insieme ad essi altri servizi segreti non italiani, erano infiltrati nelle organizzazioni terroristiche italiane. Allora, fermiamoci per le informazioni. No, devo dare le informazioni sul traffico. Ripartiamo da qui da Fausto Biloslavo, sentiremo anche la voce del ministro Frattini ieri al TG1, che cosa ha detto riguardo a questo allarme. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, avete paura a viaggiare per le minacce lanciate dagli Stati Uniti e da altri paesi di Al-Qaeda in Europa? Sentiamo due ascoltatori. Osvaldo da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io volevo fare questa affermazione, in effetti. Ho 44 anni, ho 3 figli e quindi le paure del futuro come papà sono naturali, però in effetti con la globalizzazione che viviamo, dove le ricchezze vengono globalizzate con la povertà e quindi la povertà porta appresso anche disperazioni, penso in queste disperazioni ci sono anche questi atti da condannare, ma comunque da prendere in considerazione. Quindi il terrorismo come risposta alle diseguaglianze nel mondo, vabbè, ma lei teme... Come risposta Allora, bisogna fare un'analisi anche su questo, secondo me. Sì, non vabbè, ma questa è l'analisi sociologica che certo, per qualcuno lascia il tempo che trova, in senso... Ma dire solo abbiamo paura e basta, io dico sì, ho paura, punto, e quindi non si fa nessuna Ho capito, analisi. Ma guardi, Osama Bin Laden, siccome io credo che la buttate giù, contrariamente a Giulietto Chiesa, Osama Bin Laden è ricchissimo, non aveva bisogno di soldi, quindi eppure si è divertito a buttare giù le Torri Gemelle perché per procurare più morti possibili, e guardi, più soldi di me, lei, Giulietto Chiesa, Fausto Biloslavo e tutti quelli che stanno qui a Radio 24 messi insieme. Alessio da Monza, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma niente, io non ho assolutamente paura di viaggiare, un po' per professione, mi occupo di esportazioni e viaggio in tutta l'Europa, nel Medio Oriente, e non vedo proprio perché dovrei non portare il Made in Italy nel mondo, come faccio tutte le settimane, per un allarme terroristico che veramente non riesco neanche a capirne la fondatezza. In questo momento sto viaggiando verso l'aeroporto della Malpensa, ho il volo per Tel Aviv via Istanbul, settimana scorsa era Istanbul e tra due settimane sarò a Beirut a portare i prodotti della mia azienda, e penso che la cosa più pericolosa sia attraversare indenne la tangenziale di Milano, insomma. Lei dice, va bene Alessio, è un altro rischio. Oh, Fausto Biloslavo, qui Giulietto Chiesa, insomma, dice, è chiaro, ci sono le infiltrazioni, ci sono anche gli stessi attentati di Madrid, è la classica strategia della tensione che c'era in Italia nell'epoca delle bombe. Io non so se ci possiamo schiodare a questo punto oppure no, Fausto, però qua sono due teorie contrapposte che si... Sinceramente insomma, è affascinante ogni volta sentire queste comiche, e penso che Giulietto Chiesa ci creda veramente, insomma, ecco, questo gli va dato atto, però non è così. L'unica cosa, ecco, sono d'accordo con lui su una cosa, ecco, diciamo che su una cosa sono d'accordo. Al-Qaeda non esiste più come l'abbiamo intesa, come l'abbiamo conosciuta prima e durante l'11 settembre, insomma, questo è un dato di fatto. Oramai Al-Qaeda è un marchio in franchising che chiunque può utilizzare, anche dei ragazzotti islamici di seconda generazione, come è capitato a Londra, e si fanno saltare per aria, insomma. Ovviamente esistono tante altre realtà che fanno parte della stessa ideologia terroristica ed estremista islamica, in questo caso, ma non c'è solo il terrorismo islamico, che appunto si annidano in queste aree senza controllo a cavallo fra Pakistan e Afghanistan, e che cercano di emulare fondamentalmente Al-Qaeda e ripetere l'11 settembre. Questa è la realtà. Però, ecco, almeno vogliamo essere d'accordo anche Fausto, l'indicazione di dire colpiranno la Torre Eiffel, Alexanderplatz, questa secondo me è veramente una follia, anche vogliamo dire, tra l'altro è la Fox News che ha rilanciato, quindi una televisione avrà avuto delle fonti di intelligence, però dire la Torre Eiffel nel mirino, Alexanderplatz, cioè se io dicessi oggi che in questo momento che i giornali sparano che stazione Termini a Roma è sotto tiro di Al-Qaeda, cioè che dobbiamo fare? La gente, sì, cioè, sono informazioni, ecco, delicate da sbattere così sulle pagine dei giornali. Sì, ecco, le dichiarazioni che sono state rilasciate su questo complotto a livello embrionale che è stato preventivamente schiantato dai velivoli senza pilota americani appunto in Pakistan e Afghanistan, e le dichiarazioni che io ho letto non parlavano assolutamente di nessuna lista di obiettivi, parlavano semplicemente che c'è una minaccia in Europa che riguarda soprattutto l'Inghilterra, la Francia e la Germania, e poi è venuto fuori anche l'Italia. La Torre Eiffel è al primo posto perché ci sono state nelle ultime settimane almeno 4 allarmi, sì, che hanno riguardato vero, la Torre Eiffel. Quindi, addirittura l'hotel Adlon di Kempinski a Berlino. Chissà come sarà contento il direttore d'albergo, sì, saranno frotte di prenotazioni, sì, adesso. Penso che questa sia una fuga di notizie che non farà contento nessuno, tantomeno i servizi segreti, perché una cosa è parlare di una minaccia e di un complotto sventato, indicando dei paesi che potevano essere il mirino, o quantomeno perché gente da questi paesi va ad addestrarsi in Afghanistan e Pakistan, quindi insomma ordivano qualcosa. Un'altra cosa è ovviamente dire che colpiranno domani la stazione terra. Da questo punto di vista, Giulietto Chiesa, abbiamo un minuto e mezzo per chiudere. La questione che poneva l'ascoltatore: c'è la diseguaglianza nel mondo, c'è la povertà e dunque da condannare, ma qui c'è la genesi anche del terrorismo. A me questi discorsi, insomma, lasciano sempre un po' il tempo che trovano, nel senso che ci sono le disuguaglianze, lo sappiamo, ma c'è anche chi si vuole immolare perché il suo stile di vita è questo. O invece sbaglio tutto? No, ci sono problemi di carattere culturale sotto questo profilo che noi occidentali dovremmo esaminare, cioè l'idea che noi dobbiamo pretendere dagli altri che ragionino come noi. Non è così, ci sono altre culture, altre civiltà, non parlo di singoli o di protesta sociale, che sono state investite dai processi della modernizzazione, globalizzazione, come la si vuol chiamare, che non sono in grado di reggere, molto semplicemente. Questo tipo di pressione che noi abbiamo imposto al mondo, peraltro una pressione ormai insostenibile anche per noi stessi, infatti stiamo precipitando in una crisi che non ha confronti storici nella storia dell'uomo, intendo dire, questo tipo di società che noi abbiamo costruito, che è una società insostenibile, si è rovesciata nel corso di pochissimi anni, praticamente di una generazione, sul resto del mondo che viveva e vive in un altro secolo con altri metodi. Pensare che tutto questo possa essere digerito da miliardi di persone che non sono noi è una sciocchezza. Noi abbiamo preteso di esportare il nostro modo di vita in situazioni che non sono compatibili con il nostro modo di vita. Noi ci siamo illusi che il nostro modo di vita doveva essere esportato in tutto il resto del mondo. Ci siamo illusi. Adesso cominciamo a scoprire che questo non funziona. Che poi ci siano degli elementi che sfuggono a ogni logica e che si ribellino violentemente, lo trovo che sia nell'ordine delle cose. Ma il punto interrogativo che dovremmo porci siamo noi. Avevamo ragione noi di pensare questa cosa o abbiamo sbagliato? No. Ci dobbiamo fermare su questa domanda. Grazie a Giulietto Chiesa e Fausto Biloslavo, in redazione Antonella Migliaccio e in regia l'alpino Peter Bescapedro. La linea Oscar Giannino, ci troviamo domattina 7:20.